Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 30 novembre, buongiorno e bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. E io sono Caterina Bombarda, qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. A presentarvi come sempre le notizie di oggi. Oggi siamo a Prato, è una bellissima storia di resilienza, una ve l'ho raccontata anche martedì scorso, la storia di Fulvio Rizzo, e questa volta da detenuto e imprenditore la nuova vita di Menci, che oggi dà lavoro a 9 persone. Lo leggo dal Corriere Fiorentino a firma di Jacopo Storni. E è la storia appunto di Menci Jetsim, albanese, 33enne, che ha passato 10 anni in carcere per svariati reati, e poi, uscito dal carcere, è diventato un imprenditore edile con tanto di 9 dipendenti, tra cui 3 persone detenute. Quindi se qualcuno pensa che le persone non possano cambiare, ecco, la sua storia è una storia che fa ricredere su questo. Caterina, se oggi Menci è una persona diversa, sicuramente sarà prima di tutto merito suo, ma anche di chi? Chi l'ha aiutato? Sì, come dici tu, il merito certamente è suo, ma anche della Caritas di Prato e della casa Jacques Fesch, dove lui ha vissuto per un periodo, che è una struttura di accoglienza che ospita gratuitamente persone con impermesso e anche i propri familiari di persone per l'appunto non abbienti, che provengono da località molto distanti. Ed è una struttura che si trova a Prato e offre in qualche modo un ambiente accogliente e decoroso. E quindi mentre Menci arriva alla casa Jacques Fesch, così chiamata anche in memoria dell'omonimo criminale francese che poi si convertì in carcere, arriva nel 2017 e questa casa era in stato di ristrutturazione. Quindi lui stava finendo di scontare i suoi 10 anni di carcere, una volta fuori doveva ricominciare da capo, non aveva i documenti, non aveva un lavoro, non aveva una famiglia e neanche un posto in cui andare, per cui chiaramente con questi elementi era altissimo per lui il rischio di recidiva, come lo è altissimo per tutte quelle persone ex detenute che non hanno opportunità una volta che sono uscite. Eh sì, questo è un argomento molto importante, ma per lui com'è andata? Cioè, si è verificato anche per lui questo rischio della recidiva? Sì, però lui ha avuto fortuna perché fu coinvolto, siccome questa casa si trovava in stato di ristrutturazione, lui fu coinvolto dalla ditta Saccenti nei lavori di ristrutturazione e così imparò un mestiere, quello del muratore. E fu anche aiutato, devo dire, anche da una volontaria che operava in quella struttura. Quindi lui capisce che gli viene offerta una seconda possibilità importante, ricambia la fiducia e inizia da lì a costruire la propria vita. Questo è stato il punto di svolta per lui. Conosce poi quella che diventerà in seguito sua moglie, il lavoro va così bene per lui che decide anche di mettersi in proprio, di assumere 9 dipendenti, 3 di questi sono detenuti. E come lui afferma, come hanno aiutato me, anche io voglio fare altrettanto, ed è per questo che lui ha assunto persone che sono uscite dal carcere. Oggi, oltretutto una bella notizia, oltre ad essere un imprenditore, è anche marito e padre di una bambina di 18 mesi. Quindi a lui e a tutte le persone come lui che hanno una bellissima storia di resilienza alle spalle, una canzone dedico a Aretha Franklin, You Make Me Feel a Natural Woman, una canzone del 1967, una delle più conosciute di Aretha. Ascoltiamola e ci rivediamo tra pochissimo. Help me. eccovi, bentornati dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Antonella, il martedì per noi è sempre itinerante e questa volta parliamo della Damasco di allora, vero? Caterina, in effetti parliamo della Damasco di allora perché la situazione nel tempo è molto cambiata. Però pensavo proprio di parlare delle città alle quali appartengono i profughi bloccati in Polonia, ne abbiamo parlato ieri. E cominciamo proprio da Damasco, che è la capitale della Siria. Si tratta di una città storica nata nello stesso periodo delle civiltà mesopotamiche. Al pari della città di Gerico, viene considerata la più antica città del mondo fra quelle abitate in maniera continuativa, in quanto addirittura le prime testimonianze farebbero risalire Damasco a 11.000 anni fa. La capitale di questo stato viene considerata appunto la città più antica del mondo, tuttora esistente, e speriamo che possa continuare ad esistere, perché parliamo di una città che oggi è ancora dilaniata dal terrorismo. In ottobre, due ordigni posizionati all'interno di un autobus militare siriano sono esplosi mentre l'automezzo passava sul ponte Hafez al-Assad a Damasco. Almeno 14 soldati sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti. E quindi torna di nuovo il terrorismo nella capitale siriana. Però parliamo della città che era e che speriamo che ritorni ad essere. Damasco, città prestigiosa dell'Oriente Arabo, che non si lascia scoprire al primo sguardo come queste bellissime città di queste zone, ma nasconde nei quartieri secolari della città antica la dolce armonia che presiedette alle fusioni di tutte le civiltà e le culture che lasciarono la loro impronta sulla città. Ed è proprio qui a Damasco che si ha l'occasione di entrare in contatto con i siriani, un popolo accogliente, aperto, dal leggendario senso di ospitalità, in completa armonia con il fascino della città che li ospita, delle antiche viuzze, delle superbe dimore, dei giardini, dei cortili damasceni e della vitalità dei souk. Sappiamo che è il Libano, ma dove è collocata esattamente? Allora, prima ti voglio dire che Damasco nacque 6.000 anni fa circa, per essere precisi. È situata ai piedi della catena montuosa dell'Antilibano, al limite del deserto, vicino a sorgenti abbondanti e ad un fiume, terre fertili e l'oasi di Ghouta non poteva che essere abitata da quando i nomadi cominciarono a diventare sedentari. Cosa che ne fa oggi una delle città più antiche, come ti dicevo prima. Il nome di Damasc appare già nelle celebri tavolette di Mari, e poi in quelle di Ebla e più tardi anche nei papiri egiziani del XIV secolo a.C. Sorge ad una quota di circa 700 metri, si trova ai piedi di Jabal Owasyun, un monte dell'Antilibano a nord-est, e a est invece si trova il deserto siriano. Dista 205 km da Amman, che è la capitale della Giordania, e 113 km da Beirut, la capitale del Libano. La città di Damasco è immersa nel verde degli ulivi, degli alberi da frutta, delle palme. Infatti, in passato i visitatori la definivano il giardino del mondo e per questo da sempre è stata considerata un po' il paradiso del Vicino Oriente. E Damasco è una città attraversata dal fiume Barada, che è citato anche nella Bibbia col nome di Abana, che scorre al centro della fertile oasi appunto della Ghouta. E se volessimo andare in viaggio a visitarla, punti da visitare assolutamente? Allora, come ce la vogliamo ricordare? Nella città vecchia, delimitata dall'antico muro di cinta romana, che fu costruita a più riprese nel corso della storia, si concentrano i principali monumenti di Damasco. Adesso te li scorro rapidamente. Allora, prima di tutto la cittadella, di cui si possono notare alcuni resti di torri sul muro dell'angolo nord-est. Quello che si vede oggi in realtà risale essenzialmente al 1207, una costruzione intrapresa dal sultano Ayyubide al-Adil, che è il fratello di Saladino, il famoso Saladino. Infatti c'è anche la statua di bronzo proprio in quell'area lì. Poi c'è il souk Amidia, lungo una via lastricata coperta da una struttura metallica costruita dagli ottomani alla fine dell'Ottocento, è colorato e pieno di animazione. Poi ci sono la moschea degli Omayyadi, che insieme alla cupola della roccia di Gerusalemme è una delle moschee più venerate da tutto l'Islam. E dopo varie occupazioni fu demolita dal califfo Al-Walid per permettere la costruzione della grande moschea, che non fu un'impresa facile a causa del suo suolo spugnoso. E poi ci sono molti mosaici, sono molto importanti perché ci raccontano la storia di questa città, che era un po' considerata l'oasi, no? Colline verdeggianti, l'acqua acqua abbondante, vegetazione superba, alberi carichi di frutta, piccoli palazzi e ville, insomma era veramente una città fantastica. Infatti secondo un'altra interpretazione sui mosaici ci sarebbe una rappresentazione del paradiso. Poi c'è il mausoleo di Saladino, situato nella viuzza che costeggia la grande moschea, dove riposa il grande Saladino, colui che piegò l'esercito dei crociati, morto a Damasco nel 1193. Poi ci sono tante altre cose, Caterina, è una città fantastica perché c'è la cappella di Anania, nel cuore del quartiere cristiano, di cui il nome si riferisce ad uno dei primi discepoli di Gesù. E poi c'è la moschea di Zainab, che è stata eretta qualche anno fa come santuario sciita in un sobborgo medievale di Damasco. E quindi insomma la bellezza di questa città è veramente enorme, è un punto di riferimento per tutta quell'area, con la speranza che presto gli atti terroristici e comunque la guerra possa lasciarla risorgere, rifiorire. E chiudiamo questa passeggiata a Damasco con, ricordando che tra un poco ci sarà l'intervista ad Adriano Moraglio, giornalista e scrittore. Però prima di ascoltare Moraglio, ascoltiamo ancora Mario Biondi, la nostra voce soul, la nostra voce italiana soul, e con la canzone This Is What You Are. Down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall. Say you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine on. Eccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro, Edu Radio e TV per questa seconda parte. Come sapete sempre i nostri ascoltatori, con l'ospite abbiamo Adriano Moraglio, giornalista e scrittore. Intanto buongiorno e benvenuto su Liberi Dentro. Grazie mille a voi. Allora, intanto parlaci di te. Ho scelto questa intervista, diciamo, con te perché mi è interessato un po' la tua storia, quello che hai fatto anche per il carcere Valle Valletta Torino, ma io so anche che sei stato collaboratore del Sole 24 Ore e anche per l'agenzia ANSA, e che hai una passione da tanti anni per la scrittura, e tant'è vero che stai scrivendo una bellissima collana di libri per Rubbettino sul mondo delle imprese. Ma sì. Quando è che hai pubblicato il tuo primo libro e di che cosa parla? Sapevo che mi avresti fatto questa domanda e ci ho pensato, beh ci sono tre volumi che sono un po' all'origine della mia storia. Il primo, che non ho firmato, ma è stato per me un esercizio molto importante, raccontava la storia di una carissima mia amica che morì a 15 anni, purtroppo, e ho raccontato la sua avventura umana, chiusasi appunto, dicevo, in modo così prematuro, ma questa ragazza fu molto importante anche per la mia crescita umana, no? E così come lo fu per tanti altri, si chiamava Cilla. E poi, questo fu nel 96, nel 1996, e poi c'è stato un altro step, il secondo, cioè io nel 2001 feci uscire la biografia, questa volta firmata interamente da me, la biografia di un sacerdote che fu un punto di riferimento importante per la mia vita. Il libro, ne rileggevo proprio le ultime pagine in questi giorni, perché Don Bernardino, Don Berna, noi lo chiamavamo così, morì il 17 novembre del 97. E io feci uscire quattro anni dopo la sua biografia. Fu un lavoro difficilissimo, durato più di tre anni, che però mi diede una grande soddisfazione. Come vedi, io il mio esordio come scrittore fu, e così è sempre stato, su storie di persone. E poi terza cosa, mi accadde nel 2008 di approfondire l'amicizia con uno che poi è diventato mio carissimo amico, ed è Marco Boglione, che è un grande imprenditore torinese ed è colui che ha rivitalizzato marchi famosissimi come Robe di K, lo vedete qua il simbolino, K, Superga, Keway, eccetera. Io ebbi una vera e propria, si dice così, sindrome di Stendhal, cioè rimasi colpito dall'esperienza dell'imprenditoria vista in un uomo. E io ebbi l'opportunità di conoscerlo bene e scrivemmo a quattro mani la sua biografia. E da lì in poi è iniziato questo filone delle storie di imprenditori. Quindi, come ogni libro, prende, almeno ogni libro, tuo libro, prende spunto da persone che innanzitutto hai conosciuto, e sì. Sindrome di Stendhal, perché comunque persone di cui hai avuto stima. Sì, cioè, sì, proprio sindrome, nel senso, sai come nasce, no, questa definizione? Raccontacelo. Stendhal, se ricordo bene, visitò la Cappella Sistina e rimase così colpito che stette male. No? Lo portarono via a peso, quindi fu uno shock positivo, ovviamente, solo che lui stette fisicamente male. Beh, io non sono stato male incontrando il mio amico Marco, però sono rimasto colpitissimo e da lì ho detto, ma io devo, allora, la prima cosa, ho detto, con questa persona devo continuare l'amicizia. E poi gli ho detto, senti, dobbiamo scrivere la tua storia. E lui mi ha guardato e mi ha detto, mi sei simpatico, cominciamo. Così è cominciata. Ecco, quello che tu dici, storie di persone che io conosco, che ho conosciuto, che conosco, con cui intrattengo dei rapporti, è sempre stato così, sempre. Cioè io ho bisogno di raccontare le storie di persone con cui ho una relazione, con cui ho un rapporto, continuativo anche nel tempo. Perché non c'è alternativa. Tu dicevi appunto che io ho lavorato come giornalista negli anni precedenti, ero un dipendente dell'agenzia ANSA e poi anche del Sole 24 Ore, ma per me, io ho sempre battuto su questo ferro in modo molto insistente, diciamo, che tu non puoi raccontare i fatti degli altri se non entri in empatia, in simpatia con quella storia lì. Fosse anche una storia triste, fosse anche una storia brutta, ma tu, per poterla raccontare agli altri, devi entrarci dentro, devi farla diventare tua. Chiaro, sì. Deve succedere come se accadesse a te quella cosa lì, no? Cioè, certo. Entri in carcere, devi entrare dentro la storia di quella persona. Che cosa è successo? La devi sentire tua. Ed è un po' quello che hai fatto tu nel 2006, quando sei entrato per la prima volta al carcere Le Vallette di Torino e hai incontrato una persona. Chi era e che cosa rappresentava per te questa persona? Ho incontrato un altro Marco. Prima era Marco Boglione, adesso un altro Marco, non sto a dire il cognome. Un ragazzo che non aveva neanche 30 anni, che era stato incarcerato per omicidio. Io un giorno telefono da casa, telefono a un amico, a un collega del Sole 24 Ore, il quale mi dice: sono venuto a Torino l'altro giorno. Ah, beh, sei venuto a Torino. E cosa hai fatto? Sono andato in carcere. In carcere, gli chiedo. E cosa sei venuto a fare? Ma guarda, sono venuto a trovare un ex allievo di mia moglie e veniamo una volta al mese a trovarlo. Ah, però. E io in quella telefonata gli dico, siccome c'era un rapporto di stima tra noi due, gli dico questa frase: se vuoi ti do una mano. E da lì è partito tutto, perché ho cominciato a scrivere delle lettere a questo ragazzo. Pensa che ci siamo scritti per 4 anni di fila senza mai vederci. Poi, quindi comincio nel 2002, nel 2006 dico, ma insomma, sto ragazzo dovrei andarlo a trovare, vederci di persona. Faccio combino con la direzione del carcere e riesco ad andare a trovarlo. Faccio un incontro, lui era rinchiuso al polo universitario del carcere Lorusso e Cotugno di delle Vallette, e conosco lui, conosco i suoi concellini. E dal dialogo con loro, vedendo che molti erano interessati alla scrittura, Marco scriveva dei romanzi già, tra l'altro, romanzi e racconti, dico, beh, guarda, penso, devo organizzare un corso di scrittura creativa. Si usava, no, in quegli anni, poi è diventato una cosa usuale, diciamo, e allora ho chiamato a raccolta amici giornalisti, scrittori, registi, attori, e abbiamo organizzato il primo corso di scrittura creativa, facendo vedere che si scrive a seconda dei mezzi, no, che tu utilizzi, per cui se lavori per un'agenzia devi essere brevissimo, molto coinciso, se lavori per la RAI è un'altra cosa, se scrivi per un quotidiano è un'altra cosa ancora, se scrivi per un settimanale o per un mensile è un'altra cosa ancora, eccetera, eccetera, eccetera. E se scrivi un romanzo o se fai teatro, è sempre scrittura è creativa. E quindi insomma è stato bellissimo, no? E di lì abbiamo cominciato. L'anno dopo ho fatto altri corsi, sempre con un tema che raccoglieva tutti gli appuntamenti, no? Non so, abbiamo parlato del tema della fiducia, del tema del sentirsi chiamati a qualcosa di importante nella vita. E allora lì ho invitato veramente l'universo mondo, imprenditori, giornalisti, scrittori, registi, attori, professionisti di diverso tipo. È stata un'esperienza veramente molto, molto bella. Ma siccome è un argomento che approfondiremo i prossimi giorni, perché sarai con noi tutta la settimana, siccome si sta un po' per concludere il nostro tempo, c'è una domanda che ti voglio fare e penso che te la farebbero in tanti dei nostri ascoltatori, anche in particolare dalla Dozza di Bologna, i nostri amici dalla Dozza. Qual è stata la tua impressione come giornalista e come uomo rispetto al carcere, non essendoci forse mai andato prima, immagino? Come ti sta? Beh, certamente, sì, è vero. Certamente mi colpì l'ambiente di reclusione, però quando io sono entrato in contatto con le persone non ho avuto nessun effetto, cioè no, mi spiego, effetto negativo, diciamo così. Cioè ho avuto, forse per la storia che avevo vissuto fino a quel momento, no? Cioè io mi ero approcciato a situazioni di bisogno, di difficoltà, anche prima, no? Ad esempio, a casa nostra, io e mia moglie Bianca abbiamo dato ospitalità a studenti universitari che avevano necessità di una casa, di una famiglia, no? E questo ci ha aiutato, come dire, a essere comprensivi verso l'altro, no? A essere vicini, no? Oppure anche quando facevamo l'università, facevamo un'esperienza che noi chiamavamo caritativa, che voleva dire andare a far studiare i ragazzi, i bambini. Cioè. Ecco, forse grazie a questa storia, io quando mi sono trovato in carcere di fronte a dei detenuti, ma non ho avuto nessun problema. Cioè, mi sono trovato di fronte a delle persone, come me, che avevano in qualche modo sbagliato, ma che io sbaglio, quindi... Adriano, il tempo ci porta verso la fine della nostra intervista e lanciamo una canzone con Claudio Chieffo, Lanciala tu, un cantatore appunto forlivese scomparso nel 2007. L'hai scelta tu queste canzoni per questa settimana con noi, e la canzone degli occhi e del cuore. Come mai? La canzone degli occhi e del cuore è perché è la storia, questa canzone racconta la storia di un uomo che ha incontrato un amico che è stato molto importante per lui e che dice che per il valore che ha significato per la sua vita potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma non lo dimenticherà mai. E il fatto di riferirsi, di ricordare, ecco, questa persona dà un'esperienza di libertà. Gli occhi e il cuore, lì si parla di occhi, di cuore, soprattutto di cuore, che vola libero pensando al bene ricevuto da quell'amico. Ecco perché mi piace. Ascoltiamola insieme. A domani, Adriano, grazie mille. Grazie a voi. Ciao a tutti. Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole, dimenticassi il posto e l'ora, o se era notte o c'era il sole, non potrò mai dimenticare cosa dicevano i tuoi occhi. E così, volando, volando, anche un piccolo cuore se ne andava, attraversando il cielo verso il grande cuore, un cuore piccolo e meschino come un paese inospitale. Ben tornati, siamo sempre soliti di fine puntata, in cui vi ricordiamo di scriverci redazione liberidentro @gmail.com, e naturalmente la rubrica a seguire è con dialoghi sulla cittadinanza, l'intervista al garante comunale di Bologna delle persone prive della libertà personale, Antonio Iagnello. Ascoltatela, scriveteci come sempre, e un saluto e a domani sempre da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco e Diana Bota. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.